mi dispiace risvegliarti. Anch'io un'anima sarò, ma ad un tratto voglio remunerarti, di sicuro lo farò. E non dici una parola, sei più piccola che mai, sei in eterno volerai, adesso vola, so che mi perdonerai. C'è tanta voglia.